YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buongiorno e buona Pasqua. Finalmente domenica. Finalmente domenica, bentornati. La domenica, non ti lo piace? So. Lo so, sì. Che ti piace la domenica. Ti piace, cioè, andare in onda la domenica con una puntata nuova. Lo abbiamo detto, basta con la replica di Radio Tube. Radio che Tube noia. Star, le grandi interviste di Marta Cagnola. No, vabbè, ma magari non lo so cosa ci verrà in mente nelle prossime puntate. Però devo dire che l'intervista che proporremo tra poco mi ha dato particolarmente soddisfazione. Te lo confesso. Lo immagino. Un uomo molto affascinante. Sì, me l'hai detto tutta la settimana che mi dici, sì. Guarda che è molto cool, guarda, sì, che qui, sì, guarda, sì, che là. Perché a me il lord inglese è un lord vero. Sì, sì. Sì. Mentre, cos'è che faceva mentre tu lo intervistavi? Doveva votare alla però Camera dei Lord, là, ma però non era là. E mi ha fatto vedere, ma no, ma ne parliamo dopo, che mi ha fatto vedere il telefonino. Era interessante, era c'era l'SMS di sua maestà. Sì, no? Sì, sì, una cosa bellissima. Vabbè, Andiamo per ordine. Parliamo dei nostri account di Twitter, chiocciola Marta Cagnola, chiocciola di Bellasio, l'hashtag RadioTube, cancelletto RadioTube. C'è il podcast. Non dimenticatevi di iscrivervi e scaricare il nostro podcast, perché capita che il sabato o la domenica uno ci ascolta, magari è un po' distratto, oppure si è perso un pezzettino di puntata, così può riascoltare tutto RadioTube. Assolutamente. E come sempre, anche in questa puntata parliamo di TV, web TV, social TV, tutto quello che ha fatto parlare la rete, quello che ha fatto in particolare parlare i social network, e in particolare Twitter, e qual è il personaggio che ha fatto andare di moda Twitter in Italia. Quando esagerà, è arrivato lui. Beh, dai. No, dai, diciamolo. Esagerà. Quando è arrivato lui, Twitter è diventato mainstream. Prima di lui non era così. Non era così mainstream. Poi a un certo punto se n'è andato, poi è tornato, poi se n'è andato, poi è tornato. Ma adesso è tornato Fiorello. Sappiamo che se n'era andato per motivi seri, insomma, no, aveva, cioè, avuto un incidente, non era stato bene, poi insomma nell'incidente era stata coinvolta anche un'altra persona, quindi lui tutto sommato aveva deciso di eclissarsi per un po'. Ma adesso sono molto contenta, è tornato intanto con un cuoricino, ha twittato un cuoricino, poi ha twittato delle mezze faccine, poi ha twittato il suo primo video. E poi il video, al bar, la sua edicola. Beh, una sorta di redazione, come dire, allargata. Ma ascoltiamo, mostriamo un pezzettino. Ma mostriamo, lui non si vede nel video. Si vede poco, per un pezzettino, un po' di barba. Si fa vedere quel taglio della barba che gli invidio molto. Nell'angolo come Google Glass di cui parlavamo ieri. Eccolo qua, Fiorello nel suo ritorno. Siamo qui. Dietro. Notare che agonia. Ti sono diventati i capelli bianchi in questo periodo che io sono mancato, in cui io sono mancato. Hai capelli bianchi, eh? Hai tagliato i capelli? E ti sei messo pure a dieta. Perché c'hai la pancia più secca di prima. Notte senza fine. Il freddo delle tue mattine. Poi la notizia principale qual è? Oggi è mercoledì. Questa è la notizia principale? No, la principale è che è tornato il freddo e oggi è l'ottimo giorno di riscaldamento. È la notizia principale, di seconda agonia, è tornato tra il freddo. Tra è tutti quelli giorno che sono tornati, anche il freddo. Anche il freddo, sì. Beh, con la colazione del mattino. Sta mangiando, mi pare. Sì, sto mangiando il cappuccino col cornetto. Comunque, bentornato Fiorello, torna anche in radio. Vabbè, è la concorrenza, ma dobbiamo dirlo, torna questa volta a Radio 1 e gli facciamo un grosso in bocca al lupo. Sono molto contenta per il ritorno di Fiorello, ma dobbiamo festeggiare anche un compleanno. Sì, devo dire che apprezzo molto questo tuo mettere assieme Fiorello, cioè uno che sa fare tutto in TV, mm-hmm, con Blob. Beh, questa settimana se ne è parlato tantissimo. Quelli che sanno fare tutti con la TV. Anche perché, sai cosa c'è? Succede che chi sa creare un bel hashtag, chi è seguito da tanta gente che crea opinione, riesce a far diventare un hashtag importantissimo. Questa settimana Blob 25 è stato diffusissimo su Twitter, cioè il 25esimo compleanno di Blob, la trasmissione di Rai 3, che insomma... Che poi, in fondo, se ci pensi, Blob è esattamente quello che facciamo noi nel nostro piccolo qui, però noi anche tutti i giorni, no? Prendiamo i nostri spezzoni e li mettiamo assieme nel nostro vivere quotidiano, guardandoli mentre tra un estratto conto e una telefonata al commercio, cioè insomma mettiamo assieme le chicche che ci siamo persi o e che non volevamo perderci della televisione. Quindi probabilmente se non ci fosse stato Blob, esatto, non ci sarebbe niente di tutto il resto. Beh, niente. No, però qualcosa. C'è qualcosa del palinsesto personale. 1989, sai? Ah, proprio 17 aprile. Sì, sai cosa, come cominciava? L'ho recuperato. Ah. Eccolo qua. Cominciava con questa frase straordinaria di Mino D'Amato. Cominciava, o quasi, c'era qualche immagine prima, ma questa era proprio la frase più importante. Mino D'Amato: chi l'ha detto che la dovete vedere tutta? La televisione non va vista tutta, va vista per piccoli brani, per piccoli segmenti. E in una serata come questa, non so al nord com'è il tempo, qui a Roma è stata una giornata bellissima, verso sera si è un po' rovinata, uscite fuori all'aperto, portate a spasso il vostro cane, parlate con vostro figlio, parlate con la vostra donna, con la nonna. Senta, lei ha mai sofferto di colite? Io sono una colitica. Capito, c'era Mino D'Amato che quanto mi piaceva. Mino D'Amato era tanto bravo. Mi è voluto tanto bene come conduttore. Era proprio una persona carina, brava, mi piaceva tanto Mino D'Amato. E poi la signora c'ho la colite, perché questo era ed è ancora Blob. Quindi buon compleanno a Blob, bentornato Fiorello. E noi invece siamo pronti per... L'avanguardia di RadioTube era Blob. Mi sto montando la testa. Un filo adesso. ti do qualche istante per pentirti di questa affermazione, perché abbiamo le informazioni per il traffico. Io le adoro. Anche perché è la domenica di Pasqua, ci servono particolarmente. Ritorniamo tra poco per parlare di qualcosa che a te piace particolarmente. Sono addicted. YouTube. Eccoci qua con la seconda parte del nostro RadioTube domenicale. Beh, ne abbiamo parlato sia nella puntata di ieri che nel primo blocco della trasmissione. È la grande passione in questo periodo di Daniele Bellasio. Beh, non che solo si è, mia. Che ci si è chiuso in casa e non esce più di casa perché... No, cioè, ci io piace sì, tanto. Però guarda che per tanti è l'argomento di questi giorni. House of Cards sta prendendo piede nelle conversazioni, le discussioni. La politica, il cinismo come categoria della politica. E allora, poi com'è recitato? Raccontiamo cos'è House of Cards, sì, intanto. Beh, è una serie televisiva che ha una origine lontana, perché viene da un libro che è uscito 25 anni fa. Poi ne era nata una serie per la BBC. Sì. Era piaciuta molto agli americani, che hanno deciso di rifarla, riproporla. Michael Dobbs ci ha messo un po' a dire di sì, l'autore ha detto, insomma, non è arrivata subito. Italia, è uscito anche Fazzi. Il libro in Italia per Fazzi. È uscita la serie in America per Netflix, è una cosa molto particolare. È nata sulla rete. In rete se ne parla tantissimo, adesso è arrivata in Italia con la nascita di Sky Atlantic, tutti il a twittare. Il mercoledì sera tutti a twittare, sì, su House of Cards. Qual è la particolarità? Che questo Michael Dobbs ha scritto di politica, ma prima ha fatto il politico. Quante ne sapeva? E ne sapeva parecchio e ha raccontato quello che in prima persona ha vissuto nel passaggio tra l'era della Thatcher e l'era successiva, e lo ha trasformato in un libro sulla politica. E un racconto sulla politica non può prescindere, come si diceva prima, dalla categoria del cinismo, che non vuol dire cattiveria. Questo personaggio, questo Frank Underwood nella versione americana, perché era troppo difficile il cognome inglese, perché era Urquhart. E quindi l'hanno cambiato. Può dirlo. Questo personaggio e questo libro hanno cambiato la vita di molte persone. Ma sentiamo, perché sentiamo proprio come lo ha raccontato Michael Dobbs. Well, it certainly changed my life completely. Sicuramente ha cambiato la mia vita, completamente. Ho passato gli ultimi 27 anni praticamente come uno scrittore a tempo pieno. Certo, ho continuato a fare tante altre cose e a essere distratto dalla politica, ma per me e la mia famiglia è stato un bel cambiamento di vita, ma credo che abbia cambiato molte altre vite. Pensiamo a due dei grandi personaggi dietro la versione di Netflix, Kevin Spacey e David Fincher. Fincher è uno dei più grandi registi di Hollywood. E non aveva mai girato qualcosa per la televisione. E nemmeno Spacey aveva mai lavorato per la TV. House of Cards ha creato qualcosa di nuovo, che ha cambiato le vite delle persone, perché è anche un momento fondamentale della rivoluzione che ha coinvolto la televisione. La TV non sarà la stessa nel giro di 5-6 anni. E uno dei primi programmi a veicolare questa rivoluzione è stato proprio House of Cards. Quindi, sì, è una serie che cambia la vita. Yes, it does change lives. Ha cambiato la vita dell'autore, ha cambiato la vita e ha cambiato la televisione. E d'altronde lui lo dice, è una rivoluzione. E House of Cards è stato uno delle parti fondamentali di questa rivoluzione grazie a Netflix, insomma. Sì, importante. Anche perché uno quando pensa a una serie televisiva nata sulla rete si immagina qualcosa con un che di, non dico di dilettantesco, però non ancora hollywoodiano. Invece qui siamo quasi oltre Hollywood, siamo al teatro shakespeariano, cosa che peraltro per Kevin Spacey è abbastanza normale, è fatta benissimo, no? C'è questo aspetto che a me piace molto, di quando il protagonista vive la sua vita pubblica, ma si rivolge direttamente allo spettatore confidandogli i veri pensieri. Sì, fa i commenti fuori onda in onda. Che è un espediente che a me sembra un po' teatrale. Io non sono un grande esperto di teatro, però mi sembra che venga fuori l'attore di teatro in grado di, come dire, intercalare se stesso. Proviamo a sentirne un pezzettino. Vediamolo. Mio padre è morto per un attacco di cuore a 43 anni. 43 anni. E quando è morto ho alzato gli occhi a Dio e sì, ho detto quelle parole. Perché mio padre era così giovane, così pieno di vita, pieno di bei sogni. E allora perché il nostro Dio ce l'ha portato via? A dire il vero, non ho conosciuto né lui né i suoi bei sogni. Era silenzioso, timido, quasi invisibile. Mia madre non lo stimava, la madre di mia madre lo odiava. Quell'uomo non sfiorava la superficie della vita. È stato un bene che sia morto giovane. Non faceva che occupare spazio. Ma questo non sarebbe stato un elogio molto convincente. Ho pianto, mi sono disperato. Perché, Dio? Come posso fare a non odiarti? Quando tu mi hai portato via la persona che amavo di più al mondo e ammiravo con tutto me stesso. Hai capito? Doppio. In pubblico parla della sua disperazione e poi, rivolgendosi direttamente allo spettatore, gli dice: ma in realtà non era assolutamente così, ma se io avessi detto la verità non sarebbe stata efficace. Abbiamo detto 25 anni fa è nato House of Cards come libro, però la politica è cambiato tutto. Ma nel frattempo, certo. Sì, allora abbiamo chiesto a Michael Dobbs come può essere ancora attuale un tipo di racconto del genere. Machiavelli. Sentiamo come ha risposto lui. Certainly there are many things that have changed. I mean, not just the issues. Certo, in politica sono cambiate molte cose, non solo nei problemi, ma anche nei meccanismi. I problemi sono cambiati perché all'epoca eravamo ancora prigionieri della paura della guerra fredda. Ora abbiamo il riscaldamento globale o i problemi ambientali, la crescita della Cina, che può essere vista come un problema o un'opportunità, la minaccia del terrorismo. Insomma, problemi del tutto nuovi rispetto a quelli di cui si parlava 25 anni fa. Ma è cambiato anche il modo in cui i politici vivono la politica. Ai tempi in cui scrissi House of Cards, erano appena arrivati i primi computer. I telefoni portatili non erano per nulla portatili, non c'erano i tweet, i social media, le notizie 24 ore su 24, cose che hanno cambiato profondamente il modo di fare politica. Si ragiona a brevissimo termine. È molto più difficile fare un passo indietro e guardare le cose nel complesso, in prospettiva. Credo che questo spinga verso la politica meno gente orientata da un'ideologia e più persone con un'attitudine da manager. Eppure in fondo resiste quell'essenza profonda che ha centinaia di anni. La natura del potere, il fascino del potere, gli sforzi per mettere le mani sul potere. Senza il potere, i politici sarebbero completamente senza senso. Questa è l'essenza profonda e immutabile della politica e del potere. L'essenza del potere, il fatto che la politica sia cambiata perché è diventata più manageriale. Tutto doppio, anche la parola potere è potere sostantivo e può avere anche un'eccezione un po' negativa, però è anche potere fare le cose. Infatti in tutto House of Cards la cosa divertente è che è un corpo a corpo tra il cinismo, che può essere anche pragmatismo, quindi il cinismo che può essere cattiveria, come può essere risolvere i problemi. Quindi tu sei di fronte a un racconto che chiaramente ti mostra un personaggio che ha molto di negativo e contemporaneamente ti affascina perché ti attrae l'idea che quel personaggio risolve anche delle cose. Dai, ascoltiamoci un pezzettino del doppio gioco di Frank Underwood, che parla con i genitori di una ragazzina che è morta in un incidente stradale. Loro ritengono il politico responsabile per una questione di manutenzione delle strade, di controllo, e sentite come lui riesce a rivoltare tutta la faccenda. Eppure, quando uno segue tutta una puntata, non riesce a non tifare per lui. È cinico, è disgustoso, eppure è, non so, il meccanismo è veramente interessante. Eccolo qua. Vorrebbe comprarci adesso? No, voglio solo darvi una mano, cercando di evitarvi anni di inutili processi. Jessica sarebbe andata alla Furman, dico bene, con una borsa di studio sportiva. Noi stiamo mettendo cartelli segnaletici, abbiamo smesso di illuminare la torre di notte e metteremo dei guardrail. L'avreste dovuto fare prima del suo incidente. Vorrebbe che dessi le dimissioni, signor Masters? Me lo dica e io lo farò, se servirà a darle un po' di conforto. Una volta ho chiesto al reverendo cosa possiamo fare di fronte a tutto questo dolore senza senso e senza motivazione. E lui mi ha detto: cos'altro possiamo fare se non prendere quello che sembra non avere senso e provare a trasformarlo in qualcosa di profondo? Ha ragione. È in questo modo che lavora Dio, attraverso noi. Allora mi permetterete di lavorare per voi? Vabbè, diabolico, è assolutamente diabolico, affascinante nel suo essere diabolico. Io finisco la puntata di House of Cards e mi arrabbio perché alla fine tifo per lui. Sì, c'è anche la moglie, e il rapporto con la moglie è straordinario, perché anche con la moglie il rapporto è di amore, ma anche di società per azioni, ma anche di complicità, se fossero considerati, e probabilmente un po' lo si può considerare così, anche, come dire, una coppia mefistofelica. Lo sono. Dai, l'ultimo minuto di RadioTube per questa domenica lo dedicherei ancora a Michael Dobbs, perché la curiosità è capire, ma visto che lui è stato capo dello staff, tu gli hai chiesto sei tu, tipo. Sì. No, ma perché è sempre stato capo dello staff di Margaret Thatcher, quando poi sono usciti i libri, cioè i politici sono andati a prenderlo, a menarlo sotto casa, si sono arrabbiati, e capo dello staff che poi cambia idea, no? Insomma, c'è un problema di rottura con la Thatcher. Ebbene sì, però è interessante capire come c'è per Underwood. È interessante capire come nascono questi rapporti e poi come reagiscono i politici. Senti qua. John Major, il primo ministro che ha preso il posto di Margaret Thatcher, è stato così gentile da dirmi che il mio libro aveva avuto sul suo lavoro lo stesso effetto che Dracula aveva fatto sul babysitting. Dopo averlo scritto, mi aspettavo che mi avrebbero chiuso le porte in faccia, perché nessuno voleva che si scrivessero i retroscena della politica. In realtà, però, non stavo raccontando i segreti di qualcuno in particolare, stavo scrivendo i segreti di tutti. La verità è che i politici amano i riflettori, adorano il mondo dello spettacolo, vogliono farne parte. E quando videro che questo libro e questa serie televisiva stavano diventando così popolari, molti vennero da me a chiedermi: Francis Urquhart, sono io, vero? È ispirato a me. That's me, isn't it? He's me, based on me. E le uniche persone che ho deluso sono state quelle a cui ho dovuto dire: no, non sei tu. I'm sorry, no, it's not you. Se conoscete la natura dei politici, non vi stupite se vi dico che molti poi sono venuti a darmi delle idee, dicendomi: sarebbe una grande sceneggiatura per un libro. Basta che fai in modo che ci sia dentro io. Just make sure that I'm in it, will you? Io vorrei concludere questa puntata straordinaria di RadioTube con una domanda che ci ha posto su Twitter Domenico Naso, collega critico di TV del Fatto Quotidiano, che dice: Underwood è un personaggio strepitoso, immorale ma irresistibile, perché però i nostri politici li odiamo? E questa domanda, secondo me, è interessante. Ti lascio riflettere, Daniele, dai. Ci penso mentre riguardo tutti i primi tre episodi. Pensavo mentre vado a rompere l'uovo di Pasqua per trovare la sorpresa. Anche magari. Andiamo a mangiare un po' di colomba e un po' di uovo, dai, è Pasqua, facciamo tanti auguri a tutti anche per questa domenica di Pasqua. Noi ci ritroviamo con RadioTube sabato prossimo alle 18, dalle 18 alle 19, e poi ancora domenica dalle 15 alle 15.30. Intanto seguiteci su Twitter, @MartaCagnola, @DiBellasio, #RadioTube, e ci troviamo la prossima settimana. Buona Pasquetta!